Questa puntata di Ammiglio Cement si servirà solo di musica Creative Commons. Cogliamo l'occasione di ringraziare gli artisti che ci hanno fornito gratuitamente questo materiale. In ordine troveremo i Buzz Aldrin, gli Hardcore, i Ben Sachs, i Wild Rogues e i Dream to Me. Ammiglio Cement, nel mio cuore di fiabe da narrare, venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Quella cavalla lì non è la stessa più, non è la stessa più, non è la stessa più. Quella cavalla lì non è la stessa più. Alice era una dolce e cara fanciulla che, come tanti dolci e care fanciulle, andò a studiare nel magico mondo fatato di Pisa. In un bel giorno di domenica si alzò alle 10:30. «Cosa mai potrò fare oggi?» si chiese. Poi, guardando il sole alto nel cielo, trovò la risposta. Andò al mare? No. Andò in montagna? No. Andò a conquistare il mondo? No, quello l'ha già fatto la bicicletta. Decise di andare nel luogo in cui bene e il male si scontrano, in un posto dove angeli e demoni gareggiavano per trovare un posto accanto alla presa. Decise di andare nella sala studio Pacinotti. Arrivata in quel mondo fantastico, si accorse di un grave particolare. Tutti i posti erano già stati presi, anche quello nella lettiera del gatto. La Pacinotti era aperta dalle 10 e già dalle 10 e un secondo era stata presa d'assalto da studenti, professori, saltimbanchi, goliardi, fighe, lavoratori, fighe, angeli e demoni, e da Carlo, il simpatico conduttore di Sinombre, un po' pugliese ma alla mano. «Cosa mai potrò fare?» si chiese. Poi, guardando il sole alto nel cielo... «Ancora? Strano, vero?» trovò la risposta. Andò a farsi una canna? No. Andò a fare un programma su radiociclette in cui si autoinvitava a casa di persone... «Ancora? E io basta con queste cazzo di domande, te cazzo è?» No, andò a cercare posto in giardino. Camminando in maniera gaia, vide una cosa abbastanza strana. Vide un coniglio parlante pugliese. A quanti di voi non è mai capitato di vedere un coniglio parlante pugliese? È tardi, è tardi. Per cosa? Sono per chiudere. È tardi, non fregno un posto, sono lasciato data a mezz'ora. La priora ho fatto tardi a fare centrato. Stavo uomini e donne e un grande fratello insieme. Oh, scusa, vai, vai. Me, camo sono fregato. Madonna tu caro. E fesse quando si grezza, ma sta tu zannire. Decise così di rincorrere il coniglio pugliese parlante. Era pugliese perché era caratteristico. E correndo in maniera gaia, finì in una buca probabilmente scavata da tossici o da Mauro mentre cercava di ingrandire la Pacinotti. Oppure da Roberta per nascondere i cadaveri degli studenti che non rispettavano le regole. Mentre cadeva nella buca, rivide tutte le cose strane della sua vita. Calderoli, Margioglio, la decima edizione del Grande Fratello e Carlo. We'll be right back. Si risvegliò sempre alla Pacinotti, ma era diverso. Il bagno stavolta funzionava e il caffè era anche buono. Gli abitanti della Pacinotti erano sempre studenti, ma sembravano usciti da un film di Tim Burton che a sua volta si ispirava ad un racconto di Carroll. Non vi diciamo che si tratta di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché sennò pare che scoppiazziamo in giro. La dolce e cara fanciulla, dolce per via dei residui delle sue perversioni sessuali con lo zucchero e Nutella, decise di provare a vedere se riusciva a trovare posto in sala centrale. Durante la camminata trovò sul suo cammino una ragazza partenopea che parlava. Oh, ciao, che fai? Ma cerchi posto? Sì, veramente sì, ce ne sono. No, penso proprio di no, tesoro, ma sai che Antonio Pacinotti è nato a Pisa il 17 giugno del 1841 ed è morto a Pisa il 25 marzo del 1912. È stato un fisico italiano a cui si deve l'invenzione della dinamo. Davvero? Ma io continuerei a cercare posto. Nato da Luigi Pacinotti e Caterina Cattani, frequentò l'Istituto Arcivescovile Santa Caterina e nel 1859 prese parte alla Seconda Guerra d'Indipendenza come sorgente volontario. Più esattamente era a Goito, punto periferico della più grande battaglia di Solferino a San Martino. Sì, ho capito che è stato grande, ma io dovrei... Fu allievo di Carlo Matteucci e si laureò in matematica a Pisa con Riccardo Felici. Oh, ma Giacinto Buono? Fu aiuto dell'astronomo Giovanni Battista Donati nel 1862, professore all'Istituto Tecnico di Bologna nel 1864, professore di fisica nell'Università di Cagliari nel 1873 e infine successe... Vabbè, io vado, eh! Riuscendo a scappare dalle grinfie della ragazza partenopea, riuscì ad arrivare davanti alla porta della sala centrale, ma con suo sommo rammarico si trovò davanti una terribile ragazza incazzata rossa con uno stupido cuore nero sulla testa. Ah no, era il contrario. Vabbè, che importa. Dicevamo... Si trovò davanti lo sguardo truce di questa ragazza, che urlava contro tutto e tutti, finché Alice, un po' timorosa, ma comunque snervata dalla ricerca del posto, chiese cos'era successo. E tu chi sei? Sei il custode? Tagliateli la testa! Ma perché? E tu chi sei? Sei una ragazza inglese che ha seguito un coniglio parlante che è finita dentro una buca scavata da tossici? Utilizzano tutte la stessa scusa. Ma veramente? Mi hanno fottuto il posto ed è tutto pieno. E hanno avuto pure il coraggio di lasciare i libri ed andarsene. Tagliategli la testa! A chi? A un po' di gente a caso che mi annoio. Vuole una mano per scoprire chi è stato? Tu faresti questo per me? Grazie, sei l'unica amica in questo posto. Tagliateli la testa! Ma perché? Scusa, riflesso incondizionato. Tagliateli la testa! Lei se ne andò via da casa sua. Lo fece per amore, per un uomo che voleva avere prepotentemente lei. E dopo solo un anno adesso non c'è neanche più la voglia di cenare a casa in due. E non è sbagliato dire che ormai sia finita, che non ha più senso stare lì. Ragazzo che ha comprato le sue scarpe non le ha messe più. Si perdono i ricordi, tutti meglio sono già morti mentre passano le 23. Lei adesso sta al telefono parlando con l'amica che non è più amica come crede lui. E sente che l'amore non ha senso, non si può fermare. È quello che ti chiama a vivere, non a morire. Ma intanto lei non scappa via, anche se al mondo chi ha un'idea, per quella lei ci muore. Non saprà dire amore, ma non dirà di no. Che non muore e cresce tra le mani del ragazzo che è uno scandalo. C'è strada in confusione, non capisce cos'è che non va. La diva è nerezione, ma un messaggio dal telefono le dice non si fa così. Le corre in bagno, piange e poi risponde non è quello, è solo che non sa predarti il cuore. Che io non sarei quella che ti mette il fiore in testa, che d'amore ti farei morire. Dopo un'ora scappa via, perché al mondo chi ha un'idea, per quella lei ci muore. pietra all'altare. Lo leggi sul giornale, già destino non si incontrano. Lui non ingoia il rospo, ora si getta sulla scia di lei. La gelosia fa male, scagli pietre chi lo vuole, ma chi non conosce quel dolore non sa che lui è cercato, che l'amore l'ha tradito, non capisce come può accadere. Che ormai non ha più testa mentre lei si ferma in costa per comprare un fiore a chi l'ama davvero. E con il cuore in festa torna verso la sua macchina, ma accade un fatto strano. Un vecchio amico nel vederla la fa seduta, già il coltello in mano, e sente solamente odio dentro sé. Estrae la lama e poi le corre incontro, per quella lei ci muore. Chissà cos'è l'amore, chi saprà dire no. Si muore su un altare, è solo un sacrificio necessario per comprenderlo. Sdubbiata dagli avvenimenti raccontati dalla Regina Rossa, Alice si spostò in un'altra sala, ancora alla ricerca di un posto. Si avvicinò a due tizi dall'aria decisamente poco studiosa e con una marea di bicchierini dalla macchinetta vicino a loro. Uno aveva un enorme cappello reggae e l'altro delle orecchie enormi. Ma voi che fate qui? Secondo te, volevamo festeggiare il nostro non compleanno, però poi Mauro ci ha messo a raccogliere persone che mozziconi di sigaretta lasciano per terra dopo averle fumate. Ci siamo rotti di studiare, minchia, e quindi stiamo chiacchierando. Oh cappello, ma se facessimo una web radio, tipo... Bah, ok, ci sto dentro. Quindi voi vi mettete qui a studiare? Studiare, ora, su questi paroloni, ma stiamo a guardare il cielo, aspettiamo che piova figa, ma appena cascano si mettono subito a studiare. Rosso di sera, bel tempo si spera! Le pre... Ma roba dello strefatto ce n'è. Minchia, ne stiamo fumando troppa, fratello. Ma non è che dopo ci viene l'ictus? Oh, ma sta arrivando lo strefatto, tipo. Rosso di sera, bel tempo si spera. Sperare in un verde di sera, ma anche di notte, di giorno. Ma tu non cerchi posto? Ma posto per far cosa? Per studiare. Studiare per cosa? Per passare gli esami? Gli esami per cosa? Ma ti senti bene? Per cosa? Senti, mi stavo riposando perché stavo costruendo una buca dove far cadere le ragazze. Per fare cosa? Per convincerle ad approvare le nuove regole del Pacinotti. E poi baccagliarle. Quali regole? Tipo mettere il disco orario nei posti a sedere? Ma che siamo, al Fibonacci? La più estrema del Pacinotti ha proposto di non concedere il posto agli immigrati, quindi fuori i siciliani. Ma tu non sei siciliano? E poi come faccio a trovare posto? È per questo che mi hanno buttato fuori. Se cerchi un posto, comunque, ti consiglio di uscire a cercare il mio capo. Lui ha sempre un occhio di riguardo con le ragazze e i buchi da cui escono. Ok, ci vado. Alice, aspetta! Fumo ne vuoi? Alice, incuriosita da una possibile soluzione al problema dei posti, visto che era una ragazza e per di più minorenne e con le tette grosse, si avvicina a questo fantomatico nuovo leader che si faceva chiamare Brucaliffo. ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme per noi e per i nostri figli un nuovo miracolo italiano. Ma quindi che devo dire ai ragazzi dentro per farmi lasciare un posto? Vedete perché siamo qui e stiamo in campo? Perché noi queste cose non le faremmo mai con voi! Perché noi siamo gente libera, abbiamo uno spirito liberale, noi vi lasceremmo esprimere le vostre cose in un pacato dialogo. Ma Presidente, mi scusi. Per questo dobbiamo contrapporci a voi, perché voi vorreste trasformare l'Italia in una piazza urlante che inveisce, che insulta, che condanna. Vergogna, vergogna, vergogna. Ma non è necessario urlare. Già con i bigliettini in mano per pubblicizzare il nuovo partito con Brucaliffo presidente, chiamato la Pacinotti delle Libertà, venne subito intercettata da una ragazza con accento lievemente siciliano, vestita completamente di bianco. Non perché fosse caratteristica come il bianconiglio, altrimenti doveva essere pugliese pure lei, ma bensì perché aveva sbagliato candeggio. Porco Dio! La regina bianca, con il suo classico accento siciliano, distolse Alice dai suoi loschi piani, ridimensionando decisamente la personalità del Brucaliffo, che ormai stava cercando di comprare i voti dello strefatto. Al che Alice decide di raccontarle tutta la sua storia. Come posso fare per trovare il posto per me e trovare il colpevole per la regina rossa? Non ti preoccupare, tu non devi mai dar credito a tre cose: alla paura, alla rabbia e alla cittadinanza. Ti aiuto io a trovare il colpevole. Regia, vai con la base! Mai il colpevole? Chi ha potuto rubare il posto? Inquietanti storie dietro una vicenda quotidiana, intrighi e gatti masochisti. Scoprirete tutto dopo la pubblicità. Nova, Nova, Nova, Nova, Nova, Nova. Benvenuti a questa nuova puntata da parte mia. E da parte mia? Oggi parleremo di censura su internet, un argomento che ha rovinato la vita di tante persone. E anche della trippa alla fiorentina. Per prima cosa, tagliate la trippa a strisce sottili. E mentre tagliate, riflettete sul fatto che ormai i governi della terra cercano di non far passare certe informazioni nocive per far soffriggere l'olio e il burro insieme all'aglio. Ora potete anche aggiungere verdure. Ed ora prendete... La Cina è uno dei paesi che pratica una forte censura online e non fa altro che... aggiungere pomodori pelati e portate a cottura. Il sondaggio di Reporter Senza Frontiere afferma che oltre il 70% del... trippa servita ben calda è ottima con una spolverata di parmigiano. Sperando che un giorno tutto questo non accadrà più. Per questa puntata è tutto. Buon appetito. Oh! Bentornati con noi, gentili ascoltatori. Sì, dico a voi due, siamo lieti di invitarvi al televoto. Potrete buttare i vostri soldi mandando un sms con su scritto il numero del colpevole a 480 Alfa Omega. Affrettatevi, il televoto finirà dopo la maratona porno su YouPorn. E poi potremo finalmente cancellare i vostri inutili messaggi e dirvi il colpevole che abbiamo già scelto. Ma ora non attendiamo oltre, vediamo chi è in nomination. Sono una metastasi della nostra democrazia. Ecco a voi il primo candidato, il cappellaio e il proto bisestile. Ciao, sono cappellaio, 25 anni, vengo dalla città di Udine. Ciao, sono lepre, so ascoltare bene e mi piacciono i treni. E ciao cappellaio. Bella lepre. Secondo candidato, lo strefatto. Oi bello, che vuoi del fumo? Ce n'ho di ottima qualità. Skunk, ganja, importato dal Pakistan, esportato in America. Terzo candidato, la ragazza partenopea. Nel 1873 infine successe al padre nel 1881 alla cattedra di fisica tecnologica dell'Università di Pisa. Tra i suoi allievi vi fu Augusto Righi. Nel 1883 divenne socio corrispondente dell'Accademia dei Licei e nel 1898 socio nazionale. E nel 1905 fu nominato senatore del Regno d'Italia. Quarto candidato, il Brucaliffo. Per questo aboliremo l'ICI. Avete capito bene? Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra. E Carlo? Ragazzi, benvenuti su Radio Cicletta. Stasera abbiamo un nuovo programma in onda dal titolo Me, in cui le ascoltatrici mi sottopongono i loro problemi sentimentali e io cerco di rispondere in maniera elegante e rassicurante. Carlo, mi eccito solo quando studio la Pacinotti. Cosa puoi dirmi per aiutare questa mia perversione? Prossima chiamata? Carlo, mi eccito solo quando alla fiera dell'Es per due soldi un topolino mio padre comprò. Cosa puoi dirmi per capire che cazzo c'entra questa conversazione con il racconto di Alice? Ti dico qualcosa che sicuramente puoi capire. È una cosa che diciamo solo noi pugliesi, ma queste parole sono sempre utili per farci capire dove sbagliamo. Beh, che cazzo me ne frega a me? Spero che ti abbia fatto riflettere con questo. Ultima chiamata. Ehi, ciao Carlo, ti ricordi quando abbiamo scopato? Beh, sono incinta. Leo, non si sente l'audio. Mi sa che l'ultima chiamata per oggi la dobbiamo saltare. Carlo, veramente ci senti? Signore, mi dispiace ma non riesco più a sentirvi. Mi dispiace, alla prossima. Alice si svegliò improvvisamente nel giardino della Pacinotti. Quella era davvero la Pacinotti ed era stato solo uno strano sogno popolato da pugliesi. Si avviò trottorellando in maniera gaia verso la sala centrale, pensando che solo in un brutto sogno poteva esistere una sala studio che era una delle pochissime a rimanere aperta la domenica in una città universitaria con migliaia di studenti. Poi si accorse che tutti i posti erano stati occupati, anche quello della lettera del gatto. Era l'ultimo posto preso, occupato da un ragazzo napoletano di nome Aladino. Mesta e china si mise fuori dalla sala studio e si accorse di avere ancora un po' di roba dello strefatto, per passare così almeno un po' di tempo in allegria. Listen to these amazing tunes, the sound of school, a brand new song. Just listen to these amazing tunes, not the words nor the lyrics, just listen to these tunes. A simple song made of a few amazing tunes. A simple song, simplicity, simplicity. Here we are, back to you. We don't know how. A simple song can ever prove that we're still alive. Simplicity, simplicity, here we are. to my words, listen to these amazing tunes. Not to my words, listen to these amazing tunes. Not to my words, listen to these amazing tunes. Not to my words, listen to this amazing tunes. Listen to this amazing tunes. Listen to this amazing tunes. Listen to this amazing tunes. Listen. Listen. Listen. Listen. Woo! Ciao. Ciao e alla prossima puntata! A mille cene nel mio cuore di... è tardi, stai occhi a palle, è tardi! Oh bello, relax! Vieni qui che questi due c'hanno un tè alle erbe che veramente... Che bontè! Buon compleanno a me, a te, a me! Oh, ma chi se ci sa? Che bontè! Buon compleanno a me, a te, a me! Non lo so... Oh, ma chi se tenono l'ictus? Che bontè! Buon compleanno a me, a te, a me! Oh ragazzi, minchia che puntata! Comunque, Dario, non ho capito chi è che faceva la parte del Brugaliffo. Oh, ma sinceramente non lo conosco. Forse era un'amica di Roberta. Sì, sicuro un'amica di Roberta. Oh, ma che state a fare, ragazzi? Cioè, qui dobbiamo finire. No, ragazzi, non ci siamo capiti. Qua c'è una scaletta da rispettare. Se no, se spunta un altro problema, il presidente Leo si incazza e invoca Satana. Un'altra volta. Oh, ma e te quello? Oh, ma quasi quasi un'altra tazza. Un trassettino, una partita veloce a perdere. Vai, me l'accollo. A posto. Allora trasmettiamo in diretta streaming un evento di vitale importanza, una partita a 3-7 dal mondo alternativa di Alice. Ecco che lo strefatto tira l'asso, ma il bianco di io solo il 3. Altra mano, mister, gioca il jolly. Bel tempo si spera. Russo sta a sir. Sì. Sì. La la. Rosso. Winky winky. Winky winky. Russo sta a sir. Bel tempo si spera. Sera. Bel tempo si spera. Bello tempo crea. Fanno. Ciao! Siamo nella merda. Ci sono problemi audio. Ci sono altri problemi. Altri problemi. Oh, potente signore delle tenebre, io invoco il tuo aiuto. Ma Cribbio, ma cosa fate? Tenga! Insomma, come diceva Milano, che pensi di me? Da lunedì vedrà che tutte queste cose andranno a buon fine. Carlo, dai, siediti, prenditi un tè. Ma a me sembra di aver visto il Brucaliffo a qualche assemblea. Forse l'ho conosciuto lì, ma... Congratulate us with another cup of tea. A very, very unabandoned.